24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta a questa nuova edizione di 24 ore in Europa. In apertura le brutte notizie sulla disoccupazione record nell'Eurozona arrivata al 10,9%. I dati sono quelli di Eurostat. Più di un giovane su tre non riesce a trovare lavoro. Quello registrato a marzo dall'Istat è un record assoluto per la disoccupazione giovanile. Nella fascia tra i 15 e i 24 anni il tasso di disoccupati è schizzato al 35,9%. Il dato più alto dall'inizio delle serie storiche mensili e trimestrali che datano 1992. L'aumento rispetto allo scorso anno è del 7,7%. Non sale l'ottimismo se si amplia poi il discorso al tasso generale di disoccupazione, che è al 9,8%, in aumento di 0,2 punti percentuali in termini congiunturali e di 1,7 rispetto all'anno precedente. Nessun mezzo gaudio, ma sicuramente un male comune a mezza Europa, dove secondo il rapporto mensile diffuso da Eurostat sono 17.365.000 i disoccupati, con un tasso del 10,9%. Record per la Grecia, passata da gennaio 2011 a gennaio 2012 dal 14% al 21%, controtendenza solo per il mercato del lavoro della Germania, che continua a resistere alla crisi, tanto che il tasso grezzo di disoccupazione ha registrato ad aprile un'ulteriore diminuzione al 7%, fra i giovani è al 7,9%. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. I nuovi dati sulla disoccupazione sottolineano ancora una volta la portata estremamente seria del problema, ha commentato il portavoce del commissario UE all'occupazione Laszlo Andor. La Commissione sta lavorando con gli Stati membri per mettere in pratica misure per lo sviluppo del mercato del lavoro, ha aggiunto, ricordando il pacchetto per l'occupazione che la Commissione ha presentato il 18 aprile e che fornisce un'agenda di medio periodo per l'UE e gli Stati membri. E i dati non incoraggianti sulla disoccupazione hanno influito anche sui mercati. Seduta contrastata per le borse europee. Solamente Parigi ha vantato un risultato positivo mentre si avvicina la nuova chiamata alle urne per le elezioni presidenziali. Milano e Madrid hanno invece riportato le performance peggiori, risentendo delle preoccupazioni per l'andamento recessivo delle rispettive economie. Del resto è stato annunciato che in Italia la disoccupazione a marzo è balzata al 9,8%, il massimo dal 2004, livello che tuttavia è inferiore a quello europeo pari al 10,9%. Così il FTSE MIB ha lasciato sul parterre il 2,6%, risentendo soprattutto del contraccolpo delle azioni bancarie, con le UBI che hanno accusato un tonfo di oltre il 7%. Sono andate male anche le azioni cicliche, risentendo delle prospettive di recessione. Buzzi è andata giù del 2,47%, Fiat del 2,19%, Fiat Industrial del 3,9%. Luxottica, però, è salita del 3,3%, beneficiando ancora delle indicazioni di ottimismo per il 2012 fornite dall'amministratore delegato del gruppo Andrea Guerra nel giorno dell'assemblea dei soci. Anche Autogrill è andata in controtendenza dello 0,6% dopo essersi aggiudicata la gestione del duty free in Giamaica. Fuori dal paniere principale infine sono volate le azioni della Juventus più 15% nell'attesa dell'incontro in casa con il Lecce a tre partite dal termine del campionato. Eleonora Micheli da Radio Corp per Radio 24 e Il Sole 24 Ore. Andiamo in Francia. Nella giornata cruciale del faccia a faccia televisivo tra il presidente uscente Sarkozy e il candidato socialista François Hollande, dato per favorito, ci si chiede in che modo, al secondo turno delle presidenziali, si indirizzeranno i tanti voti presi dall'estrema destra di Marine Le Pen e come si comporteranno gli astensionisti. Sentiamo a riguardo Bertrand Badi, professore di relazioni internazionali, al microfono di Valeria De Rosa. Se teniamo conto dei sondaggi, la maggior parte di coloro che al primo turno hanno votato per Marine Le Pen sceglieranno Nicolas Sarkozy. Ma è anche possibile che molti al ballottaggio si astengano. In questo caso François Hollande vincerebbe facilmente. Una seconda possibilità è che gli elettori del Front National si spacchino. Molti lavoratori delle classi popolari hanno votato Marine Le Pen, abbandonando i partiti di sinistra. Ma non è affatto scontato che questi elettori siano disposti a votare per Sarkozy. Entrambi i candidati cercano di ottenere i voti del Front National e questo modificherà i loro programmi e le campagne elettorali. Gli elettori di Marine Le Pen hanno un livello molto basso di identificazione politica. Fino all'ultimo sarà impossibile dire per chi voteranno. For whom they will vote. Dopo due mesi si rompe il silenzio attorno al rapimento di Rossella Urru. I sequestratori hanno chiesto 30 milioni di euro di riscatto per il rilascio della nostra cooperante e di quella spagnola rapita con lei nell'ottobre scorso. Nella trattativa non rientrerebbe invece il terzo ostaggio, un altro spagnolo. Lo riporta in esclusiva France Press. Il Movimento per l'Unicità e la Jihad in Africa chiede anche che Madrid intervenga per la liberazione dei due Sahrawi arrestati in Mauritania. Restiamo in Africa, ma ci spostiamo in Etiopia. È stato lanciato ieri a Volisso un progetto di sanità pubblica che QAM, Medici con l'Africa, sostiene insieme al governo etiopico e la cooperazione italiana per garantire l'accesso gratuito al parto sicuro nei 4 distretti africani. Presente all'inaugurazione anche l'ex premier Romano Prodi. Lo ha intervistato Gigi Donelli. Ma l'Europa è in fondo il più grande donatore in Africa, ma i paesi europei svolgono una politica parziale, i francesi con la francofonia, gli inglesi con l'anglofonia, poi gli Stati Uniti con i loro paesi amici, e ci troviamo nell'assurdo del fatto storicamente incredibile che l'unico paese che ha una politica continentale in Africa è la Cina. Allora è inutile che noi ci mettiamo a fare sogni. O l'Europa si mette assieme e fa una politica comune, oppure non c'è da fare, l'unica politica unificante la fa la Cina, con risultati enormi dal punto di vista delle prospettive future. D'altra parte, vede, io per l'ONU ho fatto un rapporto al Consiglio di Sicurezza sulla pace, sul peacekeeping. Il consiglio che davamo, no, era molto semplice: trasferire all'Unione Africana autorità e mezzi per poter organizzare la difesa della pace in ambito africano. È stato interessantissimo perché tutti i paesi del terzo mondo, la maggior parte dei paesi asiatici, tutti i paesi sudamericani, ci hanno approvati in pieno. Al Consiglio di Sicurezza, la Francia, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti ci hanno lasciato assolutamente soli. Il presidente croato Ivo Josipovic ha deciso di annullare la sua partecipazione al vertice dei leader dei paesi dell'Europa centrale in programma Yalta l'11 e il 12 maggio a causa delle violazioni dei diritti umani in Ucraina, chiaro riferimento al trattamento riservato dalle autorità di Kiev all'ex premier Giulia Timoshenko. Intanto l'ipotesi di boicottaggio degli europei di calcio 2012 il prossimo luglio proprio a causa delle tensioni politiche in Ucraina agita lo scenario politico e sportivo continentale. Ieri sul tema è intervenuto il ministro dello sport italiano Piero Gnudi, sentiamolo. Credo che quando ci sono fatti che offendono la democrazia, come purtroppo sono quelli che sono successi in Ucraina, lo sport non può fare finta di niente e guardare da un'altra parte. Dopodiché ogni decisione dovrà essere presa a livello europeo, non certamente il ministro dello sport italiano o il ministro dello sport di qualsiasi paese europeo può prendere decisione in modo singolo. In chiusura andiamo a Londra, dove si discute ancora dello scandalo che ha colpito News Corporation, l'impero di Murdoch. Inadeguato a gestire la sua impresa, e questa è l'opinione controversa della Commissione Cultura della Camera, che ha invitato di fatto Rupert Murdoch a farsi da parte, incoraggiando gli altri azionisti ad agire per esautorarlo. Secondo i deputati, con la sola eccezione dei conservatori critici, ma non fino al punto da sentenziare un verdetto finale per l'editore di origine australiana, Rupert Murdoch avrebbe chiuso gli occhi dinanzi allo scandalo delle intercettazioni telefoniche operate dal News of the World. Il verdetto dei deputati complica le cose sul fronte più delicato della battaglia che Murdoch giocano in Inghilterra, il futuro della pay TV di Sky B, che l'autority delle comunicazioni sta vagliando. Ofcom deve decidere se Sky B possa mantenere le frequenze che le sono state assegnate o se non abbia più le caratteristiche adeguate di correttezza che erano state riconosciute all'emittente tempo fa. Se così dovesse essere, la prospettiva di una cessione di Sky B per il gruppo Murdoch diverrebbe una realtà. Un gruppo che ieri ha fatto numeri da record, sfondando in 9 mesi 5 miliardi di sterline di fatturato solo per quello che riguarda i numeri di Sky B. Scenari di là da venire per ora, ma da ieri incredibilmente più vicini. Leonardo Maisano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra. È tutto per questa edizione di 24 Ore in Europa. Grazie a Filippo Reggi in regia e a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.